Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La ringrazio, deputato. Bene, e allora, colleghe e colleghi, proprio su questo punto permettetemi di rivolgere un saluto forse irrituale, ma credo doveroso, al dottor Picchio, che ci sta seguendo dalle tribune. Il dottor Picchio ha seguito questo provvedimento ed è il padre di Carolina Picchio, che purtroppo a soli 14 anni si è tolta la vita ed è stata la prima vittima riconosciuta di cyberbullismo nel nostro paese. E oggi infatti avete sentito anche una certa enfasi nelle parole della Presidente della Camera Boldrini. È stata approvata all'unanimità, per una volta si sono trovati tutti d'accordo, la legge contro il cyberbullismo, quindi contro le molestie, le violenze online. Ne parleremo, e lei ha citato appunto anche la ragazzina Carolina Picchio, che si era suicidata a 14 anni dopo aver subito la violenza sessuale dal branco, e in più, come se non fosse abbastanza, avevano poi postato le immagini di questo video su online. Insomma, lei poi non aveva retto a questa situazione, si era suicidata. Ne parleremo entreremo nel dettaglio di questa legge, vediamo che cosa prevede, e poi ci occuperemo di molte altre cose, naturalmente, come sempre in tutte le puntate di Effetto Notte, tutte le sere dalle 21 alle 22. Questa sera parleremo anche del presidente americano Trump, che rischia forse l'impeachment, cioè la messa in stato d'accusa per questa storia del Russia Gate, delle condivisioni di notizie, di informazioni riservate, di intelligence con la Russia. Oggi Putin ha fatto una strana affermazione di cui poi ci occuperemo, e dobbiamo anche capire, ma è normale che vengano registrate le conversazioni del presidente americano, chiunque esso sia, visto che Putin ha detto sono disposto a dare la registrazione di quei colloqui per dimostrare che non c'è niente di male. Poi c'è di male invece nella fotografia dell'Istat per quanto riguarda il nostro paese, un paese che invecchia, un paese che non si rinnova, dove il lavoro è sempre più precario, aumentano solo pensionati e impiegati e scompare la classe operaia e il ceto medio. Veramente una situazione sconfortante di cui parleremo. Ci collegheremo con Cannes per alleggerirci per l'inizio del Festival del Cinema Internazionale. Poi c'è la partita di calcio, c'è la finale di Coppa Italia Juventus e Lazio, di cui, come si dice, vi darò contezza man mano. Ma intanto, prima di approfondire tutti questi temi, vi ricordo la pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666 349-238-6666. Titoli. Stati Uniti, su Trump lo spettro dell'impeachment, Putin lo difende, nell'incontro con Gentiloni dice Mosca pronta a fornire la registrazione del colloquio con Lavrov. Scontro sulle intercettazioni, Orfini del PD accusa sono un attacco alla democrazia, interviene anche Napolitano che dice quanta ipocrisia su questo tema, mentre la volontà di intervenire non c'è. Legge elettorale, il PD presenta il Rosatellum, Renzi si dice sicuro che sarà approvata a giugno. La legge contro il cyberbullismo, il testo approvato definitivamente dalla Camera oggi all'unanimità. La fotografia dell'Istat, l'Italia cambia, addio alla borghesia, alla classe operaia, il paese invecchia e non si rinnova. La tragedia della torre dei piloti a Genova, pene dimezzate rispetto alle richieste per il crollo della torre, 10 anni al comandante della Jolly Nero. Incidente per Nick Hayden, investito mentre era in bici a Riccione, il motociclista è ricoverato in gravi condizioni a Rimini. Calcio in campo Juventus e Lazio per la finale di Coppa Italia. E quindi cominciamo dalla pagina estera. Oggi incontro bilaterale a Sochi in Russia tra il presidente Putin e il nostro presidente del Consiglio Gentiloni. Rapporti solidi hanno confermato i due leader. Non può esserci un automatismo nel rinnovo delle sanzioni a Mosca sulla questione ucraina, ha detto Gentiloni, ma l'Italia non romperà con i suoi alleati. E da Sochi Putin, il presidente russo, è tornato sul Russia Gate, scherzandoci anche su. Negli USA si sta sviluppando una specie di schizofrenia politica. Lo afferma Vladimir Putin dopo la bufera sulle presunte rivelazioni fatte da Donald Trump al ministro degli esteri russo nel recente incontro alla Casa Bianca. Il numero uno del Cremlino ha persino scherzato con Lavrov, anche lui sorridente, fingendo di riprenderlo per non avergli rivelato le notizie top secret avute da Trump. Il presidente russo si è anche offerto di fornire al Senato americano la trascrizione della conversazione tra Lavrov e Trump, un'offerta che ha suscitato le reazioni sdegnate sfumate o perlomeno ironiche dei parlamentari americani, sia democratici che repubblicani. Uno di loro, il deputato Dem Al Green, ha chiesto nel pomeriggio alla Camera l'impeachment per il presidente alla luce delle rivelazioni secondo cui Trump avrebbe chiesto a febbraio James Comey, allora capo dell'FBI, di mettere fine alle indagini su Michael Flynn, il consigliere alla sicurezza nazionale travolto da Russia Gate. Nonostante tutte queste grane, la premier britannica May ha già dichiarato che continuerà a condividere le informazioni di intelligence con l'attuale amministrazione USA. Il tutto mentre il Washington Post esce con un'altra rivelazione. Il presidente USA starebbe pensando ad una NATO araba e l'Arabia Saudita avrebbe un ruolo centrale. Non sono stato eletto per servire i media di Washington, nessun politico nella storia è stato trattato peggio di me, lo sfogo poco fa di Trump. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ma come diciamo, è normale, come ci chiedevamo all'inizio, che i colloqui che il presidente americano ha con i vari leader mondiali, in particolare con quello russo, l'altra superpotenza, vengano registrati? Ce ne occuperemo, ne parleremo con un ambasciatore di lungo corso. Ma adesso andiamo alle questioni più italiane, quel caso Consip e la polemica sulle intercettazioni. La pubblicazione della telefonata tra Matteo Renzi e il padre Tiziano, di cui abbiamo parlato molto ieri, alimenta i sospetti dei renziani di un attacco alla democrazia mirato a demolire l'ex presidente del Consiglio e lo stesso PD, e ridà fiato quindi allo scontro decennale sulle intercettazioni che l'ex presidente della Repubblica Napolitano definisce ipocrita. Questa polemica perché dice non c'è mai stata la volontà politica per concordare provvedimenti che mettano fine a questa insopportabile violazione che la Procura di Roma vuole chiarire avviando verifiche che puntano a individuare il pubblico ufficiale responsabile di questa fuga di notizie. E siamo alla legge elettorale. Dopo la bocciatura dell'estensione dell'Italicum anche al Senato, Matteo Renzi promette una nuova legge elettorale in tempi brevi. Il PD propone un sistema misto. Accelerazione Dem sulla legge elettorale sarà in aula il 29 maggio, assicura il segretario Matteo Renzi, e questo permetterà di approvare il provvedimento ai primi di giugno. Lancio un appello, scrive poi Renzi, diteci sì o no e non perdete altro tempo. Intanto i Dem eleggono Emanuele Fiano, nuovo relatore in Commissione Affari Costituzionali della Camera, al posto di Andrea Mazziotti dei Civici Innovatori. Dopo il no all'estensione dell'Italicum al Senato, il PD vuole il Rosatellum, 303 deputati eletti col maggioritario, 303 col proporzionale, senza scorporo e liste bloccate. Così Fiano. Una buona legge per il Paese, garantisce contemporaneamente governabilità e rappresentatività, è un giusto mezzo tra varie istanze che sono state presentate dai partiti. Il Movimento 5 Stelle va all'attacco, il PD vuole l'anti-5stellum, gli interessa solo una norma contro di noi, ma il problema sono i numeri al Senato, così l'ex relatore Mazziotti. Il mio dubbio su questa legge è che non abbia i numeri al Senato, molto semplicemente, che quindi rischi di impantanare il percorso. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E come vi dicevo all'inizio, è stata approvata all'unanimità la legge contro il cyberbullismo, sì, definitivo della Camera, per il contrasto appunto alle molestie sul web. Il testo è stato approvato a Montecitorio all'unanimità, 432 favorevoli, una sola astensione. Questa legge è il primo passo necessario, la dedichiamo a Carolina Picchio e a tutte le altre vittime del cyberbullismo, così ha detto, l'avete sentita anche all'inizio, la Presidente della Camera Laura Boldrini, salutando Paolo Picchio, padre della prima vittima del cyberbullismo in Italia. E poi, come vi dicevo, effetto note, cercheremo di entrare più nel dettaglio di questo provvedimento con il relatore della legge stessa. Oggi giornata internazionale contro l'omofobia. Il presidente Mattarella ha denunciato che le violazioni inaccettabili della dignità umana e la compressione della libertà e degli affetti della persona che derivano da qualunque forma di persecuzione in base all'orientamento sessuale sono intollerabili. Arcigay denuncia 196 storie di violenza per orientamento sessuale e chiede a gran voce che sia inserito penalmente l'aggravante per motivi omofobici. Enza Loddo ha intervistato il segretario nazionale di Arcigay, che è Gabriele Piazzoni. Purtroppo quest'anno dobbiamo registrare un fenomeno nuovo, l'aumento dell'omofobia istituzionale, cioè l'omofobia che viene legittimata da dichiarazioni di esponenti che ricoprono cariche pubbliche, sindaci, parlamentari o alti funzionari. E questo, diciamo, ha creato ulteriori danni, perché ovviamente avere un sindaco che dichiara io non celebrerò mai unione civile perché secondo me sono persone malate o perché gli fanno schifo o perché secondo me è contrario all'ordine naturale delle cose, non è una dichiarazione da nulla, è una dichiarazione che poi, tradotta alle estreme conseguenze, può portare a legittimare atti di violenza, discriminazione. E ora la fotografia dell'Istat, un'Italia sempre più vecchia, con disuguaglianze sociali che esplodono, è diventato un paese di impiegati e pensionati, è la nuova mappa socio-economica tracciata dall'Istat che vede nella penisola aumentare le quote di over 65 a fronte di un nuovo minimo delle nascite, 474.000, e un esplodere appunto delle disuguaglianze non solo fra le classi sociali ma anche all'interno delle classi sociali. Secondo l'Istat sono ancora quasi 7 su 10 giovani sotto i 35 anni che vivono a casa dei genitori, ma al contrario tempo sono 3 milioni e mezzo le famiglie senza redditi da lavoro, ne parleremo più tardi. Ora di nuovo all'estero, prende forma la squadra di governo del neopresidente francese Macron. 18 ministri e 4 sottosegretari, qualcuno in più rispetto ai 15 annunciati dal presidente. Parità perfettamente rispettata, anche se i ministeri di maggior peso sono in mano degli uomini. Piuttosto anziani, peraltro, tra i 62 e i 69 anni, a dimostrazione del fatto che il rinnovamento non passa necessariamente dall'età. Una decina di figure in arrivo dalla cosiddetta società civile, due esponenti di un certo rilievo provenienti dalla destra, che vanno ad aggiungersi al Premier, ai quali è stata affidata la cittadella dell'economia, dei conti pubblici, dell'industria, qualche ex socialista, 3 o 4 centristi. Sono questi in estrema sintesi gli elementi caratterizzanti del primo governo dell'era Macron, il primo governo della ricomposizione politica che si sta realizzando in Francia in nome della trasversalità e del superamento delle barriere ideologiche, con una forte connotazione europeista e l'ingresso della star dell'ambientalismo Nicolas Hulot, l'architetto della COP21, molto popolare in Francia, che fino ad oggi aveva sempre rifiutato le proposte che gli erano state fatte via via da Chirac, Sarkozy, Hollande. Marco Mussanè, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi. Ancora all'estero, in Venezuela, un ragazzo di 15 anni è morto oggi dopo essere stato ferito ieri da uno sparo d'arma da fuoco a margine di una manifestazione antigovernativa nello stato di Taquira, nell'ovest del Venezuela. Lo ha reso noto il quotidiano El Nacional ed è la 49esima vittima nella protesta di piazza contro il presidente Maduro. Per quanto riguarda la cronaca, invece, questo incidente che è occorso al ex campione di motociclismo Nick Hayden, grave incidente per il pilota statunitense della Superbike investito da un'auto mentre era in bici a Misano Adriatica, Riccione. Hayden, che è stato anche iridato della MotoGP, era insieme a un gruppo di ciclisti, sarebbe stato scaraventato sul cofano dell'auto che l'ha investito sfondando il parabrezza e è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Rimini. Pensate, ha fatto il campione per anni sulla moto e va a fare questo incidente con la bicicletta. Gli auguriamo di guarire presto e tutto il bene possibile. Intanto direi che per lo sport, invece, quello che in questo momento è attivo e vivace, c'è la Juventus e Lazio, la partita Giovanni Capuano, è una finale di Coppa Italia. Eccomi Roberta, sì, è il primo vero trofeo di questa stagione che si assegna, è il primo tassello, se vogliamo vedere, da parte dei tifosi della Juventus, che porta al triplete Coppa Italia, campionato che la Juve può vincere domenica vincendo contro il Crotone, oppure poi si arriva fino alla finale di Cardiff del 3 giugno per la Champions League. Però attenzione, perché è una partita tutt'altro che scontata. 10 minuti sul cronometro, Juve 0, Lazio 0, ma è stata la Lazio che in questi primi 10 minuti è andata più vicina al gol, lo ha fatto al sesto con un palo colpito da Keita, una ripartenza innescata da un lancio profondo di Milinkovic-Savic, si è fatto un po' sorprendere la difesa della Juventus, Keita ha bruciato Barzagli e Bonucci, ha concluso sul primo palo anche Neto, che questa sera gioca al posto di Buffon perché è stato il portiere che ha giocato tutta la Coppa Italia per questa Juventus, anche Neto non era perfettamente posizionata, palla però che è finita sul palo, 30 secondi più tardi la Juventus ha risposto con una frustata dal limite dell'area di rigore di Higuain, palla molto violenta ma centrale, stracoscia, l'ha respinta con i pugni. È una gara che è iniziata su ritmi altissimi e sarà certamente una finale molto bella, perché questo ci aspettiamo da due tra le squadre che giocano il calcio migliore in questa stagione. E la Lazio ha recuperato all'ultimo momento Parolo, c'è stato qualche timore anche nel corso del riscaldamento perché Parolo lo ha interrotto prima dei compagni, Parolo reduce da un infortunio, ma alla fine è stato schierato da Simone Inzaghi titolare nel 3-5-2, Juventus con il 3-4-2-1, davanti c'è Higuain che abbiamo già citato, ci sono Dybala e Mandzukic a centrocampo, ci sono Rincón e Marchisio al posto di Khedira e Pjanic, che sono i due veri titolari, ma Khedira è infortunato, Pjanic è squalificato, dunque questa sera a centrocampo c'è un po' di emergenza per Allegri. Juventus però che è in vantaggio in questo momento con gol di Dani Alves, 11 minuti e 20 sul cronometro. Dani Alves ha trovato con un destro al volo dall'interno dell'area di rigore la rete del vantaggio, disattenta, completamente disattenta la difesa della Lazio su un traversone che arrivava dalla sinistra, e Dani Alves è stato bravissimo al volo, ha schiacciato il pallone che ha rimbalzato davanti a Stracoscia, si è infilato sul palo più lontano e dunque Juventus che ha trovato il vantaggio dopo 11 minuti e 30 secondi. Il traversone da sinistra proveniva da Alex Sandro, Dani Alves che sta facendo un finale di stagione davvero straordinario dopo aver a lungo fatto fatica nell'inserimento nella Juventus. 1-0, a te Roberta, abbiamo raccontato in diretta il gol. In diretta, come spesso capita qui, effetto notte, imprese dirette, gol, grazie Giovanni Capuano. Poi man mano sentiremo gli aggiornamenti, come procede questa partita finale di Coppa Italia. Intanto procedono i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e i messaggi al 349-238-6666. Per esempio, diceva un ascoltatore, adesso vediamo se lo ritrovo, che non si è mai usato per quanto riguarda la possibilità di mettere sotto accusa il presidente americano il 25esimo emendamento. Vediamo se lo ritrovo, eccolo qua. Scusate un attimo, che ho intanto per aprire WhatsApp. Flavio lo dice: per anni non si è parlato del 25esimo emendamento più rapido dell'impeachment proposto per Obama. L'amicizia con la Russia è un peccato, il presidente americano ha meno potere di un quotidiano. Caro Flavio, lo chiederemo tra poco a un ambasciatore di lungo corso. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie in 60 minuti, tutte le sere dalle 21 alle 22, dal lunedì al venerdì. Roberta Giordano sempre con voi, avete sentito allora il riassunto della giornata. La partita intanto prosegue 1-0 per la Juventus contro la Lazio in questa finale di Coppa Italia. Noi però andiamo anche sulle notizie più ponderose. Tra poco ci occupiamo di Stati Uniti, intanto i vostri messaggi continuano sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666 per sms e WhatsApp. Per esempio sulla fotografia sconfortante dell'Istat, fotografia socio-economica del nostro paese, Danilo dice, scrive: dopo la sciagurata legge Fornero, a 65 anni si è ancora in età lavorativa, il termine anziano va rivisto, buona serata. Luca scrive: di chi è la colpa di questa situazione pietosa? E poi Francesco: l'Italia è come il Titanic o Titanic, balliamo e cantiamo mentre si naviga verso l'iceberg, le prospettive sono funeste. Poi leggerò anche il resto dei messaggi, anche del suo messaggio di Francesco. Ma adesso, se non avete acceso puntualmente alle 21, prima di cominciare con il primo ospite, vi ricordo quali sono i fatti principali di oggi. Intercettazioni Consip, Napolitano, interviene anche l'ex presidente della Repubblica sulla polemica e dice: contro gli ipocriti, perché finora non hanno voluto mettere mano a questo tema. Orfini del PD dice: è un attacco quelle delle intercettazioni alla democrazia. Intanto la Procura di Roma va a caccia della talpa che ha passato queste notizie riservate. Renzi accelera sulla legge elettorale, i primi di giugno dice sicuramente sarà approvata. Fiano del PD è il nuovo relatore, presenta un testo base in commissione. E poi su Trump lo spettro dell'impeachment, ne parleremo tra pochissimo con l'ospite. L'Italia che cambia, secondo l'Istat addio alla borghesia, alla classe operaia che scompaiono. Il rapporto dell'Istat dice che il paese invecchia e non si rinnova. E poi nella tragedia della Torre dei Piloti a Genova nel 2013, 10 anni al comandante della Jolly Nero, pene dimezzate rispetto alle richieste IRA dei parenti delle vittime. Poi motociclismo, Aiden, il campione, ex campione di motociclismo, investito in bicicletta da un'auto a Riccione e grave all'ospedale di Rimini. E Cannes al via Almodovar, difende i film, via il festival Almodovar, che è il presidente della giuria, difende i film in sala, e parleremo poi anche di questa polemica. Quindi concentriamoci prima di tutto sugli Stati Uniti, con le nuove puntate del Russia Gate, che hanno naturalmente ripercussioni anche a livello internazionale. Russia Gate, vi ricordo, è questa indagine che sta scuotendo da qualche tempo gli Stati Uniti sui rapporti intercorsi tra Donald Trump e il suo staff e Mosca nel periodo della campagna elettorale per le presidenziali 2016, vinte appunto da Trump. Quindi è inerente al supporto, al ruolo svolto dalla Russia, naturalmente per il momento supposto ruolo, nelle scorse elezioni presidenziali. E tutto questo sta creando sempre più, sembrerebbe un grosso problema per Donald Trump. Nei giorni scorsi vi ricordo che Trump ha licenziato il capo dell'FBI, Comey, che stava appunto indagando su questo Russia Gate. E il Washington Post intanto ieri ha scritto che il presidente americano avrebbe condiviso con i russi delle informazioni di intelligence, delle informazioni riservate. Sarebbe successo lo scorso 14 maggio quando nello studio ovale della Casa Bianca Trump ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov. Trump si sarebbe vantato con Lavrov dicendo che lui ha a disposizione una grandissima quantità di informazioni e per dimostrarlo avrebbe messo gli interlocutori russi al corrente di notizie fornite da un partner non precisato degli Stati Uniti. Poi ieri il New York Times ha detto che questo partner sarebbe Israele. Trump alla fine, mentre la Russia ha smentito di questo scambio di informazioni, Trump ha detto: ma alla fine è un mio diritto, stavamo parlando di informazioni che riguardano il terrorismo. Ne voglio parlare di tutto ciò con Giancarlo Aragona, che è ex ambasciatore a Mosca e consigliere scientifico dell'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Buonasera ambasciatore Aragona. Buonasera a voi. Allora, Putin oggi nell'incontro che ha avuto con Gentiloni a Sochi ha detto: ma io posso tranquillamente mettere a disposizione la registrazione di quei colloqui. Allora una domanda che subito viene così spontanea è: ma succede proprio di routine, è normale che questi colloqui del presidente americano vengano registrati? No, non è affatto normale e devo dire che avendo conosciuto Putin, avendolo seguito e conoscendone la grande esperienza e scaltrezza, sono molto sorpreso di questa dichiarazione, che è veramente dirompente. Non a caso il suo consigliere diplomatico poco dopo ha corretto e ha detto: no, il termine usato da Putin è un termine che può significare registrazione ma anche trascrizione, quindi hanno corretto il tiro. È difficile dire quale termine abbia realmente inteso usare. Certo, se Lavrov, Kislyak o qualcuno della delegazione russa aveva un apparato di registrazione, ha registrato, è un fatto veramente senza precedenti, gravissimo. Tra l'altro è anche particolare, ambasciatore Aragona, che Putin voglia quasi giustificarsi, scusate, dicendo: guardate, siamo trasparenti, vi do anche le registrazioni. Cioè, un presidente come Putin è strano, anche sembra un'ingenuità, a parte che lei diceva forse la traduzione Putin non è corretta, però insomma ha fatto il giro del mondo questa notizia. Sì, l'ha fatta, hanno dovuto comunque precisare, insomma è chiaro che c'è un imbarazzo russo adesso a seguito di questa voce che circola. Sa, Putin ha voluto fare un'opera di limitazione del danno. Il rapporto russo-americano è in questa fase davvero burrascosa, perché anche a lasciare da parte per un momento la portata e la realtà delle manipolazioni o degli interventi russi durante la campagna elettorale, e indubbiamente adesso una volta insediato Trump, quello che è evidente è che qualunque iniziativa russo-americana, qualunque tentativo di dialogo, qualunque contatto viene immediatamente interpretato come qualcosa di oscuro, di bieco, con alle spalle chissà quale disegno. Ora qui bisogna stare attenti, perché è importante non solo per Russia e Stati Uniti, ma per il mondo intero, che questi due paesi si parlino e si parlino in maniera costruttiva. Trump ha grandi difficoltà ad avviare, a condurre un dialogo con Mosca, perché qualunque sua mossa viene subito denunciata come una, addirittura come tradimento, quindi è un momento davvero burrascoso, è un momento che non fa bene agli Stati Uniti, non fa bene all'Europa, non fa bene a nessuno. Ambasciatore Aragona, abbiamo ancora un minuto. Io le volevo chiedere, siccome molti ascoltatori si stanno interessando a questa possibile eventualità dell'impeachment, cioè della messa in stato d'accusa del Presidente, quindi il rischio che venga, diciamo, defenestrato, no? C'è anche la possibilità di due modi per far cadere il Presidente degli Stati Uniti: l'impeachment oppure il 25esimo emendamento che qualche ascoltatore ha citato, che consente il 25esimo emendamento di rimuoverlo senza che sia necessario elevare accuse precise. È sufficiente che il vicepresidente e la maggioranza del gabinetto trasmettano al Congresso un documento dicendo che il presidente non è più in grado di esercitare i suoi poteri. Ma rischia invece l'impeachment, visto che uno degli requisiti è il tradimento o l'ostacolo alla giustizia, come sembrerebbe in questo momento? Ma no? Guardi, l'impeachment ovviamente è un passo estremo che ha effetti di gravissima destabilizzazione. Ma lo rischia Trump in questo momento? Guardi, lo rischia nella misura in cui la sua maggioranza, perché non dimentichiamo che Trump e il Partito Repubblicano ha la maggioranza nei due rami del Parlamento degli Stati Uniti, potrebbe rischiare se i senatori soprattutto, ma anche i membri della Camera dei Rappresentanti, pensassero che la presidenza di Trump diventa un impedimento serio e di grande portata alla loro rielezione. Perché questo davvero è, diciamo, il fenomeno politico che potrebbe portare all'impeachment. Poi certo, se venisse fuori qualche fatto specifico, allora lì entriamo in un'area un po' diversa, però politicamente è questo che rischia. Però un fatto molto dirompente e molto grave. E quindi remoto per il momento. Grazie ambasciatore Aragona. Grazie a voi. Grazie, buonasera. Forse voleva dire l'ambasciatore non così remoto mentre ci stavamo salutando. Comunque adesso invece parliamo dell'Italia, dove forse il futuro è remoto, nel senso che non abbiamo più capito dov'è e come si può prospettare. Vi parlavo di questa fotografia socio-economica nel rapporto annuale dell'Istat, che parla del nostro paese, parlando appunto dall'economia al lavoro, dai giovani alle famiglie, dicendo che la crescente complessità del mondo del lavoro attuale, scrive l'Istat, ha fatto aumentare le diversità non solo tra le professioni ma anche all'interno degli stessi ruoli professionali, acuendo le disuguaglianze tra classi sociali e anche all'interno delle stesse classi sociali. Dice che sta scomparendo la classe operaia, che è il ceto medio anche, e che una volta appunto erano categorie molto radicate nella struttura produttiva del nostro paese, hanno un po' abbandonato il loro ruolo, stanno un po' disgregando. C'è una frammentazione, una precarizzazione anche soprattutto, appunto lo sappiamo, del lavoro. Ci sono giovani con alto titolo di studio che sono occupati in modo precario, stranieri di seconda generazione che non hanno il background culturale dei loro genitori, stranieri di prima generazione a cui non viene riconosciuto il loro titolo di studio, una fetta sempre più grande di esclusi dal mondo del lavoro. Ne vorrei parlare con Alessandro Rosina, che è docente di demografia all'Università Cattolica di Milano. Buonasera, professor Rosina. Buonasera. Dove stiamo andando? Mi pare che ci sia in atto un cambiamento antropologico, uno stravolgimento della nostra società, anche proprio si parlava nel rapporto dell'Istat di categorie che non esistono più, di tutto che viene precarizzato e anche il futuro è estremamente precario, no? Un po' per tutti, Rosina. Sì, l'impressione che esce da questo rapporto e che un po' va a confermare anche dati, insomma, che avevamo, insomma, un percorso che veniva monitorato da varie fonti, ma insomma quella più autorevole poi è questa che fornisce l'Istat ogni anno, è che noi siamo un paese che sta cambiando. Rispetto a questo cambiamento sappiamo quello che non può più funzionare, quello che va lasciato, quello che in qualche modo non rientra più nella possibilità di costruire una società e un'economia solida nel XXI secolo, ma non abbiamo ancora ben chiaro cosa vogliamo diventare e dove andare. E quindi questo ritratto ci dice quello che non c'è più, ma non ci fa capire quello che di nuovo positivo potrebbe crescere e potrebbe emergere. Perché questo nuovo e positivo che potrebbe emergere come dimostra il confronto con altri paesi che invece crescono e producono benessere, arriva da soggetti che noi abbiamo lasciato ai margini, che sono soprattutto le donne e le nuove generazioni. Ora, finché non saremo un paese che produce opportunità a questi soggetti, a queste risorse, o le lasciamo o in panchina o a giocare in difesa, non le spostiamo in attacco, questo paese non può vincere, può semplicemente cercare di non prendere troppi gol. Quindi Lusina continua a essere un paese maschiocentrico e geriatrico, come possiamo dire, così in una sintesi un po' sì, da un lato non può più esserlo, perché quel modello lì era quello degli anni 50, 60, già negli anni 70 non era più possibile un modello di quel tipo. E tanto meno può esserlo adesso, quel mondo si sta sgretolando, ma il nuovo mondo fa fatica a emergere, a crescere, e quindi ci troviamo con quello che non c'è più, che non funziona più, ma non appunto con le nuove opportunità che dovremmo invece creare, mettendo in gioco le potenzialità che abbiamo, ma che continuiamo a lasciare in margine. Quindi c'è proprio un deficit di visione del nostro futuro, di quello che vogliamo diventare, quello che vogliamo essere, di quali sono le nostre specificità come sistema paese, di come possono diventare vincenti in questo secolo e di come fare in modo che le risorse che abbiamo si allineino in questa direzione. Tutto questo non lo stiamo facendo perché viviamo la giornata. Francesco scrive: l'Italia è come il Titanic, balliamo, cantiamo mentre si naviga verso l'iceberg, le prospettive sono funeste e quando moriranno un po' di nonni, che attualmente rappresentano una vera forma di welfare, poiché hanno lavorato al tempo in cui si usavano i contratti veri, la crisi conoscerà ulteriori sviluppi drammatici. Giovanna scrive: temo che verranno tempi duri per noi anziani, la sanità farà sempre più fatica a garantire cure e prevenzione, la politica è ottusa, non riesce a capire le necessità dei giovani, è troppo presa a garantire il proprio stato, parlano, sono inconcludenti, il debito aumenta, la crescita langue. Quindi un fallimento della politica italiana e mancanza di visione, quindi, finora, Rosina. Beh sì, perché questo è il ritratto che emerge, cioè è un paese che ha subito le trasformazioni e i cambiamenti, non li ha capiti, c'è un deficit di interpretazione di come il mondo sta cambiando e quale può essere il proprio ruolo in questo mondo che sta cambiando, e poi, oltre a un deficit di comprensione, un deficit di governo del cambiamento. Ora, la combinazione di queste due cose ci rende un paese molto vulnerabile e molto fragile, che si sta impoverendo rispetto soprattutto alle risorse più importanti che servono per costruire il futuro, che sono le nuove generazioni. Ora, il processo di degiovanimento della popolazione italiana, cioè di riduzione alle basi della consistenza quantitativa ma anche qualitativa dei giovani, rischia poi di essere qualcosa che pagheremo nei prossimi decenni, perché la crescita non può che arrivare da lì. Cioè, se vogliamo essere un paese che si difende rispetto ai costi di cambiamenti che non sappiamo gestire, allora va bene, facciamo meno figli possibile, così le famiglie non si impoveriscono con i costi dei figli. Se vogliamo essere un paese che cresce, abbiamo bisogno di mettere in campo le nuove generazioni in maniera consistente per tornare giovani a produrre benessere e donne, ricchezza. Quindi un triste ritratto, speriamo che ci sia più lungimiranza della classe politica, insomma le speranze sono abbastanza esigue. Grazie professor Rosina. Grazie a voi, buona serata. Grazie, adesso ci prendiamo questa pausa. La natura di prima mano vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Riprendiamo con le notizie, abbiamo già discusso di un bel po' finora con gli ospiti e poi avete sentito il riassunto della giornata. Tra poco vi ricordo i titoli principali, intanto continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Sempre sul rapporto Istat, Simone dice: è una tendenza che si trascina da più di 20 anni, va sempre peggiorando, la principale colpa della politica è di non dire la verità ai giovani, di continuare a illudere con il reddito garantito, il posto fisso, i diritti acquisiti eccetera, mentre la realtà è del tutto opposta. Comunque avete sentito anche questa mancanza di visione di quale deve essere il nostro futuro, la strada da seguire che ci diceva il professor Rosina. Adesso però cambiamo tema tra pochissimo, intanto i titoli principali sono comunque questi. Stati Uniti su Trump allo spettro dell'impeachment, Putin lo difende nell'incontro con Gentiloni, dice Mosca pronta a fornire la registrazione del colloquio con Lavrov, avete sentito l'ambasciatore Aragona qui effetto notte, scontro sulle intercettazioni, Orfini del PD accusa, sono un attacco alla democrazia, interviene anche Napolitano che dice quanta ipocrisia su questo tema, manca la volontà di intervenire. Legge elettorale, il PD presenta il Rosatellum, Renzi si dice sicuro che sarà approvata a giugno, la legge contro il cyberbullismo, ne parleremo tra pochissimo, poi la fotografia dell'Istat, l'Italia cambia, addio alla borghesia e alla classe operaia, il paese invecchia e non si rinnova, e per il calcio con la finale di Coppa Italia, Juventus-Lazio, per il momento conduce la Juventus per 2-0. La ringrazio, deputato Bene. Allora, colleghe e colleghi, proprio su questo punto permettetemi di rivolgere un saluto forse irrituale, ma credo doveroso, al dottor Picchio che ci sta seguendo dalle tribune. Il dottor Picchio ha seguito questo provvedimento ed è il padre di Carolina Picchio, che purtroppo a soli 14 anni si è tolta la vita ed è stata la prima vittima riconosciuta di cyberbullismo nel nostro paese. Allora è a lei e alle altre vittime che noi oggi dobbiamo dedicare questo provvedimento, che è un primo passo, ma era necessario e doveroso da parte di questo Parlamento. Avete sentito all'inizio con Laura Boldrini, Presidente della Camera, che ricorda in questa legge finalmente passata all'unanimità alla Camera, dicevo finalmente su una cosa erano tutti d'accordo, ricorda Carolina Picchio che è stata la ragazza di Novara, considerata la prima vittima appunto, come sentivate, del cyberbullismo in Italia, che si è suicidata a 14 anni nel 2013 perché dopo aver subito una violenza sessuale dal branco, questi disgraziati vigliacchi hanno poi postato anche il video su internet e lei non sopportando più le ingiurie e lo scherno si è suicidata. Quindi passata finalmente la legge, cyberbullismo, cioè le molestie sul web, quali sono i punti principali? Ce lo facciamo raccontare proprio dal relatore, avete sentito anche menzionato dalla Presidente Boldrini, che è Paolo Beni, deputato del PD, relatore appunto di questa legge. Buonasera onorevole Beni. Buonasera. Quali sono i punti principali quindi di questa legge finalmente approvata? Ma guardi, innanzitutto questa legge va a colmare una lacuna della nostra legislazione attorno a un tema che purtroppo sta diventando, come già dicevate, un rilevante problema sociale e culturale soprattutto. Parliamo appunto del cyberbullismo, cioè di quella evoluzione del più tradizionale fenomeno del bullismo fra adolescenti che si è verificata soprattutto negli ultimi anni grazie all'uso massiccio da parte anche dei giovanissimi di dispositivi che consentono un facile accesso alla rete. Quindi la legge definisce innanzitutto il cyberbullismo e questo non c'era nella nostra giurisprudenza, si preoccupa, dichiara le proprie finalità nel prevenire e nel contrastare questo fenomeno, si preoccupa anzitutto, e questo è forse il punto più significativo, il secondo articolo, della protezione e della tutela delle vittime, nel senso che i minori che sono stati vittima di questi atti persecutori potranno avanzare attraverso i genitori, ma anche direttamente istanza ai gestori dei siti, delle piattaforme telematiche, perché vengano rimossi quei contenuti offensivi, lesivi, che creano uno stato di sofferenza. I gestori saranno obbligati a farlo, altrimenti interviene entro le 24 ore successive il garante della privacy. Questo è un primo strumento di protezione. Però poi la legge nelle altre parti si preoccupa soprattutto di mettere in atto strategie di prevenzione attraverso il concorso di attori diversi, la famiglia, la scuola soprattutto, ma anche gli stessi operatori del mercato, la polizia postale, cioè ci sono competenze diverse che concorrono in azioni comuni. Viene data molta importanza al ruolo della scuola. Ogni istituto dovrà avere individuare al proprio interno un docente referente di questa materia, dei progetti di prevenzione e di contrasto, sono specificate alcune attività formative, viene rafforzato nei programmi di insegnamento l'educazione all'uso consapevole e responsabile dei nuovi media della rete internet. C'è poi anche una parte che riguarda il tema, nei casi più gravi, del ammonimento da parte del questore, cioè della segnalazione al questore, che evita il percorso penale per i minori, ma al tempo stesso ha l'obiettivo di rendere più consapevoli questi ragazzi della gravità. Chiaro. Bene, quindi la legge c'è, aspettiamo che sia applicata. Quindi già un primo passo molto importante, come diceva lei, come ricordava anche la Presidente Boldrini. Paolo Beni, io onorevole la ringrazio, le auguro quindi buona continuazione e buon lavoro. Grazie. A voi. Buonasera. Viabilità. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. Vi presento. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che ora vi ricordo in breve. Abbiamo parlato di Trump con lo spettro dell'impeachment, lo stato in messa d'accusa, questo è il rischio negli Stati Uniti, ne abbiamo parlato con l'ambasciatore Aragona, Putin lo difende nell'incontro con Gentiloni, oggi ha detto Mosca è pronta a fornire la registrazione del colloquio con Lavrov, scontro sulle intercettazioni in Italia con Orfini del PD che accusa sono un attacco alla democrazia, è intervenuto anche il presidente, ex presidente della Repubblica Napolitano che dice quanta ipocrisia su questo tema, manca la volontà di intervenire. Per la legge elettorale il PD ha presentato il Rosatellum, Renzi si dice sicuro che sarà approvato entro giugno e poi la legge contro il cyberbullismo di cui abbiamo appena parlato con il suo relatore, il testo è stato approvato definitivamente all'unanimità oggi dalla Camera. Poi la fotografia sconfortante dell'Istat per l'Italia che cambia, addio alla borghesia, alla classe operaia, il paese invecchia e non si rinnova e poi incidente per Nick Hayden investito mentre era in bici a Riccione, il motociclista è ricoverato in gravi condizioni a Rimini. Per il calcio prosegue la finale di Coppa Italia con la Juventus che conduce 2-0 sulla Lazio. E ora alleggeriamoci collegandoci con Cannes al Festival Internazionale del Cinema, 70ª edizione della competizione per la prestigiosa Palma d'Oro, 70ª edizione che si apre oggi. Per noi c'è la nostra Cristina Battocletti del Sole 24 Ore. Cara Cristina. Buonasera a tutti. Ciao Cristina. Senti, allora, chi hai visto sfilare prima di tutto? Sappiamo che la madrina è la nostra bellissima, credo ancora splendida, Monica Bellucci, che il presidente della giuria è un regista che non ha bisogno di presentazioni, Pedro Almodovar, perché naturalmente è cinema, è qualità, è giuria, il festival è anche insomma sfilata, corpi più o meno esposti, una vetrina dei personaggi, no Cristina? Certo, è molto glamour, anche se appena adesso sono uscita dalla sala ho visto un film meraviglioso del russo Zviganintsev, che è quello che ha vinto il Leone d'Oro. E beh, c'è stata Beh, diciamo, tu hai una passione per i russi, letteratura russa, film russi, quindi c'è una deformazione professionale di gusto. Mi è piaciuto a tutti, devo dire. Comunque c'è stata una passerella meravigliosa con la Bellucci, che è stupenda, ha 52 anni, ha detto il festival è proprio come una donna che non invecchia mai, la sua bellezza rimane intatta, ha fatto un tango in onore di Pedro Almodovar che ha fatto un po' di polemica. Su cosa? Su, mi pare, Netflix e Amazon, in che senso? No? Cosa dice? Esatto, noi siamo un po' tutti d'accordo come critici, nel senso che dice non è possibile che vinca al Festival di Cannes, vinca uno dei due film che passano su Netflix, nel senso che non passano nelle sale. Ricordiamo, Netflix è una piattaforma americana che ormai offre tantissime, un sacco di serie, di fiction, di serie infinite e poi di film, ma in questo caso che cosa succederebbe? Cioè senza che sia presentato lì a voi critici sul grande schermo il film, come funzionerebbe? Nel senso che Netflix va benissimo, però il problema è proprio che il Festival di Cannes ha questi schermi meravigliosi, io non ne ho mai visti di così belli e un audio così ben definito, che è assurdo effettivamente che vinca uno dei due film, però dobbiamo ancora vederli, dobbiamo ancora vedere se sono dei buoni film, anzitutto sulla carta dovrebbero esserlo, però lui dice non ho niente, Pedro Almodovar dice non ho niente contro le nuove tecnologie, semplicemente è assurdo che a Cannes, che è il trionfo proprio del grande schermo, del piacere della sala, vinca uno di questi due film. Senti, domani c'è il... Allora, oggi cosa ha inaugurato? Tu hai visto il film russo che ti è piaciuto, ma c'era un film francese un po' stranino, mi pare, che ha aperto abbastanza festival. Stranino. Anzitutto è stato il trionfo, naturalmente, dello sciovinismo francese, perché loro sono grandiosi e lo mostrano. C'era questo film di Arnaud Desplechin che aveva Charlotte Gainsbourg, poi aveva la Marion Cotillard e Mathieu Amalric. Questa storia di una donna, di una moglie che torna dopo 20 anni, era stata dichiarata morta, e Mathieu Amalric si trova a dividersi con Charlotte Gainsbourg. Non si capisce mai se questo ritorno sia vero o falso, è tutto un po' un confine tra il fantasma, il sogno, l'incubo, la malattia mentale. Piuttosto confuso, aveva delle scene molto molto belle, molto poetiche, altre che effettivamente si capiva dove volevano andare a parare. Cristina esatto. Batocletti, noi ci salutiamo, tanto tu sarai qui lì tutti i prossimi giorni, avremo tempo di raccontare quello che vedi di bello lì al Festival Internazionale del Cinema di Cannes. Buon divertimento intanto. Anche a voi, buona ciao, serata. Cristina, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ora invece dobbiamo aggiornare gli ascoltatori e gli ascoltatori, chi è interessato alla partita di calcio finale di Coppa Italia con Giovanni Capuano, Juventus e Lazio. La Juventus va, diciamo, meglio al momento, no? Sì, molto meglio, siamo nell'intervallo, è appena finito il primo tempo, risultato 2-0 per la Juventus. Avevamo raccontato in diretta il gol di Dani Alves al 12esimo, che aveva spezzato un ottimo inizio da parte della Lazio, che aveva colpito anche un palo con Keita dopo 6 minuti. Da lì in poi c'è stato dominio dei bianconeri, che hanno più volte sfiorato il raddoppio e poi l'hanno trovato al 25esimo con Bonucci, che è stato bravo in mischia a battere Stracoscia. Lazio non pervenuta in quella fase, si è vista soltanto nelle ultime battute di questo primo tempo, ha provato a impensierire Neto in un paio di occasioni, soprattutto con un colpo di testa di Immobile, però che è finito largo, e dunque squadre a riposo sul 2-0 per la Juventus, partita che sembra instradata. Grazie Giovanni Capuano, noi ci riaggiorniamo, vediamo se ci sono delle novità, per esempio per le 22.